24 mattino di Alessandro Milan. Abbiamo fatto una classica figura di merda. Per fortuna una settimana senza quel personaggio dalla risata odiosa e noiosa. Signor Milan, qui abbiamo un grande vuoto di potere giornalistico. Ci manca Alessandro Milan con il suo sorriso. Ciao Milan Maria, sono Anacleto Fiorentino. Anche se mi stai su coglioni, fai buone ferie. Ciao, bischeraccio. There's a man in New Orleans who plays a rock and roll. He's a guitar man with a great big soul. He lays down a beat like a ton of cola. He goes by the name of King Creole. You know he's gone, gone. La cittadinanza però non si regala. E guardate, questa legge sullo Ius Soli, che viene presentata come un regalo per i bambini, è un modo per mercificare le nascite. Noi stiamo parlando di dare la cittadinanza a dei bambini che hanno vissuto in Italia, che hanno studiato in Italia. Noi stiamo parlando di dare la cittadinanza a dei bambini che sono italiani. C'è ovviamente anche il motivo pericolosissimo del cavallo di Troia con cui gli integralisti islamici usano questa vicenda dello Ius Soli per in qualche maniera entrare nelle nostre nazioni e mettersi contro di noi. Noi stiamo parlando di dare la cittadinanza a dei bambini che hanno vissuto in Italia, che hanno studiato in Italia. Noi stiamo parlando di dare la cittadinanza a dei bambini che sono italiani. Oh, se non si capisse, Zanda, il capogruppo al Senato del PD, ve l'abbiamo fatto sentire due volte. Signori, eccoci qua, per la gioia di alcuni, per la non gioia di molti, sono tornato a 24 mattino. Sono le 6:31 minuti. Andate a farvi i bagni, viene l'estate. Oh, mai consiglio fu più giusto quello del nostro presidente De Luca, che condurrà in versione 4.0 presto qui 24 mattino. Stiamo mettendo a punto il tutto. Riposatevi. Consigli sani, consigli meditati, fate come me. Ibiza, per esempio, è un'isola meravigliosa. Andate a vedervi un concerto di David Guetta. C'ero. Devo salutare Paolo Corleoni lì in regia, che sostituisce l'alpino Peter Bescapè, che è in ferie per l'appunto. Ma tutti in ferie, tutti che se ne vanno in ferie. L'unico Lorenzo Nespoli, sempre lì a lavorare, testa bassa, testa bassissima. Eccolo lì a lavorare. Tutti a Malindi. No, vabbè, dai. A Ibiza, ragazzi, ero all'opening. Sono andato all'opening. So che questo vi interessa molto, eh. All'opening season all'Ushuaia con David Guetta. Che spettacolo, signori, che spettacolo. E vabbè. Sono le 6:32 minuti, siamo qui, signori, siamo qui a riprendere con 24 mattino, e vi informo che a Taranto ci sono 24 gradi. 24 gradi a Taranto. Mentre a Siena 17 gradi. Senti un po', Lorenzo, fammi subito un controllino. Barbariga di Vigonza, in provincia di Padova, 18 gradi. Nella nostra mitica Paratico, 19 gradi e 65% di umidità. Conferma, Lorenzo, conferma. Amici di Barbariga di Vigonza, esistete. Lo conferma Lorenzo Nespoli, qui in redazione. Sanremo, 24 gradi, e baci da Silvia, baci Silvia. Scusa, cos'è questa? La loggia 19 gradi. Che è la loggia? Ma che è? Una loggia massonica? La loggia 19 gradi. Ma. A Torino 23 gradi, a Gorgonzola, in tangenziale est Antonello 23 gradi. Allora signori, alle 6:34 minuti voglio salutare subito Marione Adinolfi. Buongiorno, hai visto? Buongiorno, ma noi hai finito, Mila, è un'ora che abbia capito. Dove sei? Non si capisce niente. No, andavo da Minoli, lascia perdere. Non si capisce. Ah, adesso ti si sente meglio. No. Mi avevano spiegato una cosa, che tu adesso eri diventato un nuovo Minoli. No, per carità. Io continua a oltranza. Fino al 31 luglio ti sbrando così. Non ci credo. Forse il 30 luglio, non lo so. Quel venerdì lì. Poi vado in ferie. E poi chi vivrà vedrà, chi lo sa. Sei già andato in ferie a Ibiza. A Ibiza, a vedere lo spettacolo. C'hai un'età, Milan, ancora andiamo a Ibiza, se ti stavi c'hai un'età, Ibiza. No, è bellissimo. Guarda, devi andarci almeno una volta, è come andare allo zoo una volta nella vita, devi andarci. Senti Ghetta che pompa, senti. Ecco. Vabbè, ma questa è così. È una femmina questa, che è? Ma che c'entra Ghetta, mica canta? Mamma mia, mamma mia, tutto ti devo spiegare. David Ghetta fa concerti. Comunque, fa concerti a 300-400 mila euro a serata, no? Viaggia in jet privato. Ma metti i dischi, che fa questo? Non ho capito. Scrive, compone. Fa quelle kunz 400.000 sterà. Per esempio l'inno di Zala Larsson, quello agli europei di calcio, l'ha fatto Ghetta. E poi hai pagato, fammi capire, per vestirti. No, mi hanno fatto un regalo, mi hanno portato all'ingresso VIP peraltro. Wow. Perché costava 90 euro. No. Ragazzi, interessa molto agli ascoltatori in questo momento. No, questo è un momento interessante. Un momento interessante. 90 euro. Voglio dirvi. Bene, benissimo. guarda, Marione, che oggi ne ho una per te. Vince l'Islam, ma certo vince l'Islam, ragazzi. Ne ho una per te. Ne ho una per te. Stai tranquillo oggi da Repubblica. Fammi salutare però il quasi omonimo Carlo Rienzi, il nostro avvocato del Codacons. Buongiorno. Avvocato, andiamo? Tutto bene? Sei mai stato a un concerto di David Ghetta? No, non so nemmeno chi è. Certo. Vabbè, un po'. Quando lo scoprirete farete una bella causa, io lo sento già. Allora c'è da aprire il Parlamento alle 6:37 minuti. Se vuoi, ci prendete un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Vabbè, insomma, Marione, che mi sono perso? Discussione sullo Ius Soli. Questo mi sono perso. Vediamo. Vabbè, un'altra cosa che so, siccome non sanno curare nessuno dei guai seri dell'Italia, abbiamo preso il tema per litigare a caso. Poi abbiamo preso il tema di far diventare italiani gli italiani non sono, ma non è una cosa nulla, diciamo così. Io dicevo, mi pareva che la notizia fosse il record nuovo del debito pubblico fatto 3 giorni fa. Ma che quella non è una gran notizia. 2.260 miliardi di euro. No, nuovo però. Abbiamo visto l'austerità nell'ultima legislatura, il debito pubblico è aumentato di 290 miliardi. È interessante, magari, però prendiamo il tempo. Lo Ius Soli. Una legge che non si farà perché nel frattempo finisce la legislatura. Quindi adesso fanno la tarantella al Senato. Vabbè, ho capito, ma adesso non è che non è come finisce la legislatura, adesso che non è che non si fa più niente di legge. Ma non si fa più niente, si fa solo la manovra di bilancio. Mila, ma ti devo insegnare tutto. Ma non hai capito, si fa solo la manovra di bilancio ormai. Non si approva più nulla. Col risultato che non si va a votare e non si fa più nulla. Cioè, non si va a votare e non si fa più nulla. Si fa la manovra di bilancio, perché ti ricordo che Certo. È una legge molto importante. Molto importante. Io ho capito una cosa del Ius Soli, non so, però qua abbiamo l'avvocato Rienzi. Una cosa ho capito di questo Ius Soli, che magari una legge se ne discute da tempo, è uno Ius Soli temperato, cioè dar la cittadinanza ai figli degli stranieri che sono per esempio i non cittadini europei qui da 5 anni attraverso un esame anche di italiano, vabbè, insomma tutto è una questione di cui si parla da tempo. La cosa sospetta effettivamente è il tempismo. Ma perché tirare fuori a 4 mesi dalla fine della legislatura, 5 mesi, 6 mesi, quello che è, fino a una settimana fa sembrava 2 mesi, una cosa che non si farà? Cioè, il sospetto è che è un po' strumentale, no? È una cosa molto vecchia, però, quindi dovrebbe essere fatta. Io credo che questa paura di dare la cittadinanza a bambini nati in Italia, che vivono in Italia, vanno a scuola in Italia, eccetera, eccetera, con la paura di aumentare il rischio di terrorismo, sia un po' ridicola. Cioè, non è che il terrorismo aumenta se si dà la cittadinanza a questi bambini. Ecco, questo è diventa, come al solito, un argomento di dibattito politico tra, adesso poi, che cosa, 5 Stelle, Lega da una parte, che sono contro l'immigrazione perché vanno dove odorano la possibilità di avere più voti, lì vanno. E dall'altra gli altri incerti, perché dicono poi se no perdiamo le elezioni. Cioè, ormai quando arriva il periodo del pre-elettorale, che da noi dura 5-6 anni, come sapete, no? più o meno. Più o meno, dai 4 anni a 5 diciamo anni. 6 mesi dopo l'inizio della legislatura, inizia il periodo pre-elettorale. Questa è la vergogna, no? Per cui le leggi si rinviano, quelle che non sono solo il Parlamento, non sono per la responsabilità. Altre cose si rinviano perché intanto così si pigliamo lo stipendio della pensione, maturiamo tutti quanti la pensione, che poi no, chi li rielegge questi? Molti sono esseri assolutamente sconosciuti, quindi non saranno mai ricandidati. Poi nel PD c'è un macello, perché ovviamente tutti quelli esclusi dal cerchio magico devono trovare un'altra collocazione, che deve prendere poi a quanto pare almeno il 5%. E quindi praticamente si pensa soltanto a questo, poltrona, poi poltroncina, poltronciona, eccetera, eccetera, e tutto il resto non conta più niente nel nostro paese. E intanto va lo sfavo. Guarda che però, Marione, tu sei così pessimista sul debito pubblico, ma oggi, o meglio, ieri la Repubblica delle Idee Padoan ha detto che va tutto abbastanza bene, insomma, sì, l'Italia non cresce come è, però, non... ci sono state messe le basi per sistemare questo paese, che tutto frutterà. Bellissimo. Siamo ultimi per produttività, perché il PIL in Europa cresce così male solo in Grecia. Siamo con la tassa di disoccupazione più alta, aumentato rispetto alla fine della scorsa legislatura, tasso di disoccupazione giovanile più alto, numero di poveri, per questa cosina in Italia non si sottolinea mai, ma ci sono 5 milioni di italiani poveri, cioè che non ce la fanno e non arrivano a fine mese, e il debito pubblico fa ogni mese il record nuovo, e Padoan ogni mese dice ma non capite niente, è normale. È normale, ma sono 280 miliardi di euro in più rispetto alla fine della legislatura precedente. C'è qualcosa che francamente non funziona, ma questo è davvero incredibile, perché vuol dire che tutta questa attività di questi 5 anni di legislatura non è servita a curare nessuno dei malanni endemici di questo paese, che è un paese che affonda. Poi ci facciamo le pippe su tutte queste stronzate che non valgono nulla, appunto le leggi ideologiche. Vabbè, ma capite, non valgono nulla. Non valgono nulla, perché non si fanno. Quando ti fai la dibattita su cose che non si fanno, quelle cose non valgono nulla, sono perdite di tempo. Si fa il dibattito adesso sul fine vita, si fa il dibattito sugli ussoli, ma sulle questioni strutturali di come reggere in piedi questo paese non fai niente. Che nel frattempo, ricordo sempre, diamo la cittadinanza a questi bambini stranieri, ma i bambini italiani non nascono nel frattempo. C'è questo piccolissimo dettaglio, secondo cui ogni anno prendiamo 300.000 italiani. Ho capito, ma chi se ne frega se nascono bambini che sono di altri? Ma a proposito di una cosa, però mi interessa un'altra cosa. Ma tu sei all'estero in questo momento? Sì, sono all'estero in questo momento. Cioè, perché? No, perché hai. Ci sfrangi con tutti quelli che se ne vanno all'estero, ci ascoltano dall'estero, e che fanno, secondo te, gli spacciatori, e dove stai? Intanto in vacanza c'è pure Ridolfi. Dove sei? Ma dove sei? A London Heathrow. Questa ce la devi dire. Attenzione, guarda che c'è una notizia. C'è una notizia. notizia seria di questa notte. C'è una notizia seria. È stato trovato un morto vicino alla moschea e 8 feriti in ospedale. E si indaga proprio a Londra. La polizia sta indagando Theresa May per un potenziale attacco terroristico. E non ci dici questa cosa. Stai lì a Londra. Avrei voluto parlarvi di cose. Stai lì nel cuore della David. Ma noi ricordiamoci che non è che è successo oggi, sta succedendo una settimana, insomma, una piccola riflessione nel frattempo è stata l'elezione in Francia, pure altro piccolo dettaglio, perché un po' che si è preso completamente il Parlamento, e noi in Italia discutiamo di cose senza senso, insomma, no? Senza senso. Comunque questo è abbastanza preoccupante. Intervistiamo con una paginata Monica Cirinna, ho visto su Repubblica. Sì. Questo infatti era quello che volevo tenere tra poco. Dopo il traffico volevo tenere giusto questo. C'è Monica Cirinna del Partito Democratico. Fai il bravo. Monica Cirinna dice: ora basta, ora bisogna sulle unioni omosessuali bisogna considerarle nozze a tutti gli effetti e bisogna aprire anche all'adozione dei bambini per le coppie omosessuali, anche perché dice nelle coppie normali, questo punto è un pochino, l'ho riletto 4 volte, è un passaggio che non ho capito. Dice anche nelle coppie tra uomo e donna, cioè normali nel senso quando nasce un bambino uomo e donna, la donna partorisce e l'uomo non è che adotta il figlio, ma riconosce. Ecco, la stessa cosa si potrebbe fare tra due papà e due mamme, no? Una, nel caso della mamma, donna, partorisce, nel caso di due papà, ovviamente con la fecondazione, la surrogata, ecco come si chiama, e l'altro riconosce. Questo è il punto con cui Cirinna dice che bisogna allargare alle adozioni. Anche questo tema che in questi 4 mesi si farà sicuramente. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Dai, andiamo al traffico. Eccomi, Milan, intanto che aspettiamo, dai, che la Juve vince il triplete. Manda il traffico. Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta. Mattino. Ciao Mina, per la prima volta ho votato a destra, ultra destra. Se possibile voterei addirittura per la Le Pen. Oh Maria, e sono davanti a un buon fritto e una buona bottiglia di vino. Lo sai, anche se mi piace i coglioni ti seguo perché insomma ho stima di te. Alessandro, sono Rita da Roma. Se non mi saluti oggi non ti ascolto più. Ciao tesoro. Non ha nulla di cui scusarsi lei su questo. Io non ho nulla da cui scusarsi, Antonio. Se non si dovrebbero scusare quei radical chic che stamattina mi attaccano. L'uso dei congiuntivi di Di Maio. Vabbè, insomma, vabbè, dai, lasciamo stare. Allora, caro avvocato Rienzi, qui adesso c'è una dinolfi che si sta per scatenare. Mamma mia, perché la Cirinna propone l'adozione anche per le coppie omosessuali, l'adozione dei figli? Adesso chi lo tiene? Chi me lo tiene più? È successo in Portogallo, hai visto la strage del Bosco? Sì, vabbè, lì che dobbiamo dire. Cioè... Andiamo verso l'estate senza avere gli aerei, quelli che spengono gli incendi, perché ce ne sono pochissimi, e quindi almeno raccomandiamo alla gente di non buttare i mozziconi, perché visto che vi avete visto che siamo a questo, dobbiamo raccomandare la gente a non provocare incendi nei boschi. La gente è proprio strana, se ne frega, come in città a Roma, vedete quello che succede, buttano i mozziconi dappertutto. Ma secondo me uno che è abituato a buttare un mozzicone in una foresta, dando, cioè anche se è talmente cretino che anche se glielo dici lo fa, cioè non è che No. Vabbè, i cretini non sono oggetto dell'avvertimento, quelli andrebbero rinchiusi, ma che possiamo fare? Però è centinaia di morti, insomma, una strage incredibile. Sì. In questo caso va bene per un fulmine. Si parla poco per un fulmine, ma la linea ha preso fuoco, cioè era una cosa che tra l'altro anche lì era prevista. No, soprattutto dicono attenzione se succede in Italia, effettivamente anche oggi i giornali, poi lo vedremo in rassegna stampa, non abbiamo gli strumenti no, gli elicotteri. Siamo in grado di spegnere, altro che gli ussoli. Altro che gli ussoli. Questi dovrebbero preoccupare. Vabbè, adesso cioè, lo ussoli non frega niente a nessuno. Allora, vediamo se frega questo. Caro Marione, dai, su, è il tuo momento, poi scatenate. Allora, la Cirinna dice... Eccola qua l'intervista, guarda qua. Che c'è? Ma lei che lo dice, che è una cosa che... La Cirinna ha oggi l'utero in affitto. Leggi quella paginata, è una pubblicità all'idea che si possano comprare i bambini partoriti da altre donne. Lei dice, finché su base volontaria, senza sfruttamento... Per me è legittimo ed è un atto d'amore, straordinario atto d'amore. Cioè tu metti in mano alla poveretta i soldi e gli prendi il bambino. Ha detto se non è sfruttamento. È sfruttamento per forza, perché chiunque ha avuto figli sa che non se li vende. Se se li vende vuol dire che è in condizione di bisogno. Non c'è ombra di dubbio su questo. Ha capito, ha detto finché su base volontaria. Che vuol dire su base volontaria? Allora mi posso vendere i reni? Cioè non funziona così, ci sono delle cose che non sono disponibili e sicuramente non è disponibile un bambino. E lo dico a Monica Cirinna, così come lo dico a quelli che pensano, il conto glielo presenteranno quei bambini, perché quando diventeranno adolescenti diranno ai genitori gay: come vi siete permessi di togliermi il diritto ad avere mia madre? Ma ti daranno così. Ma tu lo sai che io la penso ad avere mia madre. Allora Mario, e tu lo sai che io la penso come te non sono anch'io favorevole all'adozione per le coppie omosessuali, non sono favorevole soprattutto al cosiddetto utero in affitto. Ma cosa ne sai tu di cosa dirà il figlio di Vendola a Vendola? Cosa ne sai? Ma che c'entra? E puoi essere certo che hai figli anche tu, che sicuramente nella fase adolescenziale questo elemento diventerà fondamentale. Come fai a esserne sicuro? Dice, dov'è mia mamma, ci sarà sempre, sapendo che quel bambino da corpo di donna è nato, dal corpo della madre è nato e dalla madre è stato tolto per un atto di compravendita vile e violento. Ma guarda, nei confronti di chi ma guarda che forse glielo chiederanno. Forse glielo chiederanno in modo tranquillo, curioso, sì. e verrà spiegato e non sarà un dramma. Cioè tu dici, certo che glielo chiederanno, ma tu già prefiguri un dramma esistenziale, certo, per te. Ma è ovvio che stai facendo un vulnus a quei bambini, ma come fai a dire di no? Ma come fai a non evidenziare? Ma perché ci deve essere una paginata di Repubblica che permette questa pubblicità? Ma che pubblicità? Ma scusa, la Cirinna è una senatrice e dice voglio portare avanti questa cosa. La Cirinna sta cercando di essere di candidata perché ha rotto con Matteo Renzi e ha scelto di prendere una bandiera perché se Renzi non la ricandida è diventata la martire LGBT. Vabbè, insomma, questo. Una volta fatta sulla pelle dei bambini. Allora, avvocato Rienzi, avvocato, tu sei pro o contro la surrogata? L'adozione sia una cosa un po' diversa, cioè l'adozione è con tanti migliaia, decine di migliaia di bambini che anche a seguito di tutte queste guerre sono abbandonati anche in Italia, anche stranieri. Se si può dare loro una casa, una famiglia, insomma, a mio parere non è questo il punto, quindi bisogna dargliela. Io sono favorevole all'adozione. Riguardo alla surrogata, cioè l'adozione anche ormai, per le coppie. Allora, sì. L'adozione che dovrebbe essere condizionata, però non a scegliere il bambino più bello, più bianco, più nero, più colorato, ma in un ambito di necessità, cioè aiutare, perché altrimenti diventa un atto di egoismo. La surrogata è un atto di egoismo, per carità, cioè non sono giochi che si fanno sempre anche un po' sulla pelle del bambino, perché sono atti assolutamente di egoismo, del tutto legittimi, ma sono atti di egoismo, cioè delle persone adulte che vogliono completare secondo loro la loro vita con un figlio che non riescono ad avere. Ma ecco, se aiutano poi dei bambini abbandonati che sono negli orfanatrofi, che sono cioè, quindi adozioni sì, adozioni, adozioni. Io sono assolutamente favorevole. Vabbè, adozioni sì, vabbè, Marione, niente, ma Marione, questa è stata la settimana di Donnarumma, anzi Dollarumma, e tu non mi dici nulla? Non mi dici nulla? Poverino, povero, lasciate fatto ragazzo. Sì, perché te lo, perché te lo vuoi la Juve, ma sei veramente una vergogna. Ma vedi che siete arroganti, ragazzi, vergognosamente arroganti. Tu lo vorresti alla Juve? Ah sì, molto volentieri, è fortissimo, quindi è il regno erede di Gigi Buffon. Andrà in una grande squadra, non una squadra in mezza classifica. Vabbè, e quindi non andrà alla Juve, non andrà alla Juve. Qui ci hai dato una notizia, ci hai dato una notizia. Vabbè. Dai, vi devo salutare, Mario Linolfi e Carlo Rienzi, alla prossima. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Siamo qui, sono le 7:20 minuti, cari signori, e tra l'altro non ho ricordato che si apre oggi la 216esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Nonché la 27esima decisiva per la modifica della legge elettorale. Signori, siamo tornati. Questa è la rassegna stampa di 24 mattino. Sono ritornato dopo una settimana di ferie. C'è Paolo Corleone in regia, c'è Lorenzo Nespoli in redazione. Mi dicono di guardare una mosca. Che. Ah no, devo salutare la diretta Facebook, ma certo, c'è Lorenzo Nespoli che mi faceva guarda in alto. In alto c'è la telecamera perché siamo in diretta anche sulla pagina Facebook di Radio 24 e su radio24.it. E allora siamo pronti per la rassegna stampa, andiamo a leggere i giornali, forza Paolo, dai, forza, dai. Non so di che parlare i giornali. Siamo arrivati a lunedì 19 giugno. Ben ritrovati anche a voi. I titoli, intanto, le aperture del lunedì sono ben diversificate sui quotidiani. Il Sole 24 Ore, banche, sfratti, divorzi, ecco l'Italia che fa causa. Tribunali del Sud in testa con Catanzaro, L'Aquila e Napoli. È una sorta di classifica sulle cause civili che tornano a crescere. Sapete che siamo un popolo litigioso. Allora, la Francia è l'apertura per il Corriere della Sera. Macron stravince, nasce la Francia dei debuttanti, e il Messaggero, Macron padrone del Parlamento. Per Repubblica invece Padoan, avanti con le riforme, sgravi per assumere giovani. Era la Repubblica delle idee, il ministro dell'economia a parlare. E questo è il titolo di prima pagina di Repubblica. Poi la strage in Portogallo. Devo dire che la stampa ha un titolo che per una volta non mi trova molto d'accordo. Le stragi del clima fuori controllo, un po' apocalittico come titolo. Questo è il titolo di prima pagina. Un fulmine scatena un maxi rogo in Portogallo, 61 morti. E in India viene messa questa notizia a fianco, ondata di suicidi per la siccità. Questo è il titolo, le stragi del clima fuori controllo. Per il giornale, la maledizione del fuoco, bruciati vivi dentro le auto, dopo Londra, il Portogallo, rogo nei boschi, più di 60 morti. Per il Fatto Quotidiano, invece, la vicenda Consip, la bomba, Marroni su Renzi, il manager, vogliono cacciarmi, mi toglierò Sassolini dalle scarpe. L'apertura, invece, del giorno, i furbetti del sussidio, crollano le dismissioni volontarie, boom di licenziamenti disciplinari, ma è un trucco per incassare indennità di disoccupazione. Ma voglio partire da un numero che trovate in una inchiesta interessante di Federico Fubini a pagina 23 del Corriere della Sera. Parla delle rimesse, cioè i soldi che vengono guadagnati in un paese e rimandati in patria. In genere c'è questa classifica delle rimesse degli stranieri, cioè quanto gli stranieri guadagnano in Italia e poi rimandano nei loro paesi. Questa volta sono le rimesse degli italiani, cioè quanto gli italiani guadagnano all'estero, gli italiani espatriati, e mandano in patria, mandano in Italia alle loro famiglie. Ebbene, c'è questa cifra in percentuale che ci riporta al 1878. Le rimesse degli italiani, i redditi maturati all'estero e trasferiti nel nostro paese, sono mezzo punto percentuale di PIL, lo 0,5%, come nel 1878. Ovviamente le cifre sono diverse. Ora, quello che hanno mandato gli italiani a casa l'anno scorso è di 7 miliardi e 200 milioni di euro, lo 0,5% del PIL. Federico Fubini: ogni coincidenza deve essere senz'altro casuale se l'Italia per certi aspetti sembra tornata al 1878. In un dettaglio, l'Italia di quasi 140 anni fa e quella attuale si somigliano in modo sorprendente. L'importanza del denaro guadagnato dai suoi cittadini all'estero e portato in patria per garantire il tenore di vita delle famiglie. La sorpresa salta fuori nelle pieghe della bilancia dei pagamenti, così come viene declinata negli annessi alla relazione annuale sul 2016 pubblicata dalla Banca d'Italia. L'anno scorso gli italiani hanno guadagnato all'estero e portato a casa 7 miliardi e 200 milioni di euro, mezzo punto di prodotto interno lordo, esattamente come era lo 0,5% del PIL le rimesse degli italiani nel 1878. La differenza è che oggi questa tendenza rivela non solo il disagio economico delle famiglie d'origine, ma anche quanto sia entrata nel sangue degli italiani l'integrazione economica internazionale che fa sotto il nome di globalizzazione. Comunque interessante questa inchiesta sulle rimesse degli italiani, la trovate sul Corriere della Sera, pagina 23. Mentre saltando su Repubblica, Marco Ruffolo racconta una tipica usanza italiana, e in questo caso non è un pregio dire usanza italiana, sotto il titolo dell'inchiesta: così il dirigente si premia da solo. Marco Ruffolo su Repubblica analizza nel pubblico impiego che cosa? Le valutazioni, o sarebbe meglio dire le autovalutazioni, giudizi su obiettivi e merito scelte dagli stessi giudicati nella pubblica amministrazione. Il ministro Madia riprova a rivoluzionare i controlli che erano stati inseriti dal ministro alla funzione pubblica Renato Brunetta del 2009, ma che, racconta Marco Ruffolo, di fatto sono, con i classici aggiramenti della legge, si trasformano in qualcosa che non vanno. Non è difficile indovinare i voti assegnati nel nostro paese a ministeri, enti pubblici, comuni e regioni per i servizi resi ai cittadini, quando a dare quei voti sono i dirigenti di quegli stessi ministeri, enti pubblici, comuni e regioni. Tutti promossi, ovviamente, senza se e senza ma. Basta sfogliare gli ultimi documenti dei cosiddetti valutatori per rendersene conto. Finiscono tutti nello stesso modo, perfino con le stesse parole. Tutto ciò premesso, l'OIV valida. L'OIV è l'organismo indipendente di valutazione, ma si può essere certi che di indipendente non ha proprio nulla. Ce n'è uno in ogni amministrazione, introdotti dal ministro Brunetta. Appena introdotti, ci si ingegnò subito a escogitare sistemi per aggirare la legge. Nel nostro paese in genere si fa così: i controllori vengono messi alle dipendenze dei controllati e il gioco è fatto. Un classico che abbiamo visto infinite volte. E poi soprattutto, come si valuta un'amministrazione? Ecco alcuni criteri tra i più noti per quel che riguarda i dirigenti: numero di protocolli esitati, delibere da trasferire entro 5 giorni dal Consiglio alla Direzione della Giustizia Tributaria, numero di riunioni alle quali si partecipa, insomma, non servizi erogati ai cittadini, ma procedimenti esclusivamente formali e autoreferenziali. Dicono al Dipartimento della Funzione Pubblica: chiamiamo pure questi dati fasulli. Molti di questi obiettivi lo sono, ma è appunto il compito che ci siamo dati: passare dalla cultura amministrativo formalistica alla cultura della performance per i cittadini. E non sarà semplice. Leggete, perché quando poi si legge tutti promosse le pubbliche amministrazioni, il pubblico impiego eccetera, Repubblica spiega i meccanismi per i quali queste valutazioni sono farlocche. Pagina 8. Rimango su Repubblica perché la senatrice Cirinnà, lei che si è più spesa per le unioni civili, ora rilancia e dice: dopo le unioni civili, che non abbiamo chiamato matrimonio, ora andrebbero equiparate alle nozze tout court e soprattutto vorrei introdurre l'adozione per le coppie omosessuali. La sfida di Cirinnà, e adesso diciamo sia nozze e adozioni. La senatrice chiede una legge per la maternità surrogata, quella che è vietata in gran parte del mondo. C'è ancora troppa omofobia anche nel PD. L'obiettivo, dice in questa intervista di Maria Novella De Luca, la senatrice Cirinnà del Partito Democratico, l'obiettivo è il matrimonio egualitario. Esiste già una proposta di legge depositata e poi lo prevede l'articolo 3 della Costituzione, quando dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua e religione, ma così non è. Nelle famiglie formate da un uomo e una donna, dice Cirinnà, lei partorisce e il padre riconosce il bambino, mica adotta suo figlio. E così, per estensione, dovrebbe avvenire nelle coppie formate da due madri o due padri. Ecco, due padri, appunto, i quali per diventare genitori devono ricorrere all'utero di una mamma portatrice. Sì, risponde Cirinnà, e anche all'ovocita di una donna donatrice. E francamente, per quanto mi riguarda, ritengo tutto questo un atto d'amore straordinario. Ma lei dice donare, ma la surrogacy, cioè la maternità surrogata, è tutt'altro che gratuita. Finché è su base volontaria e non c'è sfruttamento, risponde Cirinnà, per me è legittima. La ricerca dimostra che motivazione altruistica e passaggio di denaro, ad esempio in forma di rimborso spese, possono convivere. Facciamo piuttosto una legge severa che non permetta abusi, visto che il 95% degli italiani che ne fa ricorso all'estero sono eterosessuali. Mi stupisce invece la battaglia contro la maternità surrogata che stanno portando avanti alcune compagne femministe. Dunque, Cirinnà rilancia. Certo, è un classico dibattito che non porterà a nulla, figurarsi se sta finendo la legislatura, si litiga sullo ius soli, figurarsi se su un tema così delicato, la maternità surrogata, che è, ripeto, vietata in gran parte del mondo, figurarsi se si trova un accordo politico. Sembra più una intervista così per lanciare un sasso nello stagno e vedere l'effetto che fa, scuotere un po' le coscienze su un tema, su un tema. Comunque, siamo all'articolo che mi fa più sorridere della giornata. In questo caso bisogna dire proprio mani sul volante, ben strette anche sul microfono, caro Paolo Corleone. Ti eri distratto, il mio tono di voce ti ha un po' scosso. Mani sul volante, racconta Stefano Brogioni sul Giorno. Guida parlando al cellulare, ma il giudice annulla la multa perché formalismi, tecnicismi, il verbale non era preciso, il vigile doveva fermare il conducente del mezzo che è passato a due metri, e poi c'era scritto che andava nella piazza di San Casciano di Val di Pesa, ma non c'era scritta la direzione. Insomma, motivi, quisquilie per cui il giudice annulla il verbale, non è stato fatto coi sacri crismi. Risultato: una persona guidava il cellulare e si è visto pure annullare la multa. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. State ascoltando un programma offerto da... Per gestire le risorse umane ci vuole experience, scoprila su inaz.it. Alessandro Milan è un po' il Macron dell'informazione. Questo è sempre uno dei migliori, perché poi di Macron parleremo se c'è tempo. Adesso in rassegna stampa ci sono notizie che riguardano il presidente francese, però vorrei partire da cosa? Allora, Repubblica delle idee, c'era Padoan a Bologna per parlare, e oggi tutto questo viene riproposto, l'intervento di Padoan, in un'intervista a pagina 2-3. Intervento del ministro del Tesoro su che cosa? Sgravi per le imprese che investono e assumono giovani. Questo è l'obiettivo lanciato da Padoan in questo intervento a Bologna. Come mai l'Italia cresce a un ritmo inferiore rispetto ai partner europei? Risponde intanto a questa domanda Padoan, che risponde: visto che sono noto come ministro tecnico, preciso, non siamo più in recessione. L'Italia cresce dalla fine del 2014, dopo anni di recessione importante che ha portato via 10 punti di PIL. È vero che l'Italia cresce poco, o almeno è vero che è cresciuta poco in passato, meno dei partner europei, essenzialmente per l'accumularsi di ritardi strutturali anche senza l'impatto di crisi finanziarie nella pubblica amministrazione, mercato del lavoro, giustizia civile. In questi 3-4 anni sono stati fatti grandi progressi nel rimuovere questi ostacoli e sono convinto che la crescita si consoliderà negli anni a venire. Questo dunque è l'ottimismo di Padoan. E proprio la domanda: Macron e Merkel possono imprimere un sostanziale cambio di rotta, visto che la nostra crisi dipende anche dall'austerity imposta dall'Europa? Un cambio di rotta c'è già stato nel 2014, risponde Padoan, quando l'Italia ha preso la presidenza del semestre europeo e ha portato l'Europa a dire che la priorità delle politiche non deve essere tanto e solo l'austerity, ma crescita e lavoro. L'Italia fa parte di questo progetto. C'è già un impegno definito tra i ministri di finanze di Francia, Germania e Italia che si riuniranno a luglio per stabilire i prossimi punti da portare avanti in agenda. E poi la proposta appunto di sgravi per le imprese che investono e assumono giovani. Questa è la proposta che fa il ministro Padoan, che poi parla anche della vicenda Consip. Vicenda Consip, c'è l'inchiesta giudiziaria. In questi giorni lei ha chiesto le dimissioni di un paio di consiglieri che siedono là in rappresentanza del suo ministero per accelerare la caduta del CDA, cioè del Consiglio di Amministrazione. Cosa è cambiato? Beh, i due membri, risponde Padoan, dirigenti del ministero, si sono dimessi portando alla decadenza automatica del CDA per evitare che fatti esogeni alla vicenda potessero indebolire il grande lavoro svolto da Consip sugli acquisti della pubblica amministrazione. Ciò che ha accelerato la situazione è la decisione del Parlamento di presentare una mozione che andava in questo senso. E allora il ministero ha deciso l'accelerazione. Sì, ma l'amministratore delegato di Consip, Marroni, non ha intenzione di dimettersi e convocherà l'assemblea degli azionisti. Non commento indiscrezioni. Questo dice Padoan, ma sulla vicenda Consip è chiaro che si consumerà una sorta di battaglia politica che è già in corso. Tra l'altro si viene a scoprire che anche il presidente della Consip, Luigi Ferrara, è indagato per false dichiarazioni al PM. 3 giorni fa il suo interrogatorio di fronte al PM Paolo Iero e al sostituto Mario Palazzi è stato interrotto dopo un'ora e il manager, come raccontano il Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini e Lorenzo Salvia, dovrà tornare davanti ai magistrati con un nuovo avvocato. Questo è il motivo che avrebbe poi spinto Ferrara a presentare le dimissioni dal vertice della Consip. Inchiesta che, ricorda il Corriere, si divide in 3 filoni. Il primo vede al centro Alfredo Romeo, imprenditore, accusato di corruzione, arrestato per avere corrotto un funzionario della Consip, il funzionario Marco Gasparri. Il secondo filone riguarda la rivelazione ad alcuni dirigenti della Consip dell'esistenza di un'indagine in corso nei loro confronti. E il CDA della Consip è decaduto, ma l'amministratore delegato Marroni rimane al momento in carica. Il terzo filone relativo ad alcune intercettazioni ai danni di Tiziano Renzi, padre di Matteo, per le quali è accusato di falso il capitano dei Carabinieri Giampaolo Scafarto. Questa è tutta la vicenda molto intricata e che spinge effettivamente l'amministratore delegato Marroni a rimanere al vertice. Non commenta indiscrezioni Padoan, ma il Fatto Quotidiano oggi qualche indiscrezione la dà. Ed è questa, la bomba Marroni su Renzi. Il manager dice: vogliono cacciarmi, mi toglierò allora dei sassolini dalle scarpe. Insomma, Marroni pare volere stare lì e dire: questa settimana vedrò il capo dell'anticorruzione Cantone per dare la mia versione. Francesco Ridolfi racconta sul Fatto Quotidiano: dire che domani in aula al Senato si ballerà è poco. La vicenda Consip, dopo le dimissioni del presidente e di un altro membro del CDA, diventa sempre più esplosiva. L'amministratore delegato Marroni, teste chiave dell'inchiesta che ruota attorno al mega appalto da 2 miliardi e 700 milioni, appunto il caso Romeo, ha fatto sapere che avrà molte cose da dire, visto che mi cacciano. Finalmente, è una frase registrata dal quotidiano Il Messaggero, potrò togliermi qualche sassolino dalle scarpe. E dunque, che succede? Si dimette, non si dimette? Si sta a vedere. In tutto questo, in tutto questo c'è Mauro Meazza, signori. Buongiorno, ben ritrovato, sempre in vacanza. Mannaggia, Mauro. Buongiorno, caro Alessandro. Ma stavo guardando proprio questa diretta su Facebook perché mi dicono sei molto abbronzato. Guarda, ti saluto te, saluto tutti. Guarda, agito la manina. Ma anche mi sembra più dotato di peli del solito. Non riesco a distinguere bene, ma vabbè. Questo barbuto. Cosa fai martedì prossimo? Non domani. Martedì l'altro ho un impegno. Devo fare un annuncio. Ho un impegno, fai l'annuncio. Abbiamo organizzato una serata straordinaria di cabaret chiamata Wondy Night, no? Per l'associazione che molti mi chiedono, presiedono. Wondy sono io. E ci sarà anche Mauro Meazza, cioè ci sarà nel pubblico. Cioè, ho già preso i biglietti, naturalmente intervenite numerosi, vi aspettiamo. Ma no, ma c'è Manera, c'è Antonio Ornano, ci sono dei comici straordinari. Bravo. C'è Mauro Meazza nel pubblico, anche lui è un comico, volendo. Sì, ma vabbè, talvolta, involontario, devo dire. Metterò tutti i dettagli sulla mia pagina Facebook tra poco per prendere i biglietti. Martedì 27 giugno, fate i bravi. Stay tuned. Allora, caro Alessandro, intanto che tu ti riposavi, sì, giustamente. E qui mica sei stati con le mani in mano, perché no, è arrivata la manovra definitivamente a compimento, sì. E poi è arrivata anche l'ape social, sai, quindi Cosucci mica da ridere. Tutto questo io cerco di riassumerlo in versi, naturalmente, in endecasillabi, essendo certo. Oggi lunedì. Vai. Della giustizia è segno la bilancia, ma non per questo sono tutte uguali le cause, se non porgi l'altra guancia, che ancora van premendo i tribunali. Vedi lo sole che con occhio raro ti svela di che litiga e discute l'Italia da Torino a Catanzaro, e non son sempre casi di virtute. Tu pur non c'eri, mio debosciatello, ma qui si cavò il sangue dalle rape, e ti spieghiamo oggi il gran novello decreto che al fin fa partire l'ape. Resta in ascolto, che ora entriamo nel vivo di quel pasticcio che Brexit si chiama, e oggi sarà un giorno decisivo per capir che vuole la gran dama, malconcia dopo il voto ma decisa nel trattar l'uscita dalla UE, e per saper su che sarà divisa, leggi lo sole e avrai tutti i perché. Mentre eri via, lo tuo portier pregiato ebbe un evento in ver poco romantico. La maglia la baciò quel Gigio ingrato, ma ora il contratto vuol lasciarne il traffico. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta Alessandro Milan, il Gigio Donnarumma dell'informazione. Sicuramente vado al Real Madrid. Allora, signori, ho capito bene che si è parlato molto di Jus Soli in questa settimana, un turbolento ingresso giovedì scorso nell'aula del Senato di questa proposta di legge già approvata dalla Camera, come scrive il quotidiano Repubblica, e che vede molto divisi i partiti. Cosa succede? Succede che ieri, sempre dalla Repubblica delle Idee, il segretario della CEI, dunque i vescovi, Galantino, Monsignor Galantino, ha criticato la Lega, ha criticato i 5 Stelle, dicendo inseguono solo il loro tornaconto. Il dibattito c'è e rimarrà anche questa settimana, ovviamente, perché si cercherà di reincardinare la legge al Senato. Certo, poi ci sono le elezioni, adesso le amministrative, i ballottaggi, però il dibattito rimane. La stampa lo legge attraverso chi? Attraverso alcuni atleti azzurri italiani che però fanno di cognome così: Yassin Bouhi, mezzofondista, 20 anni, nato a Reggio Emilia da genitori marocchini. Daisy Osakwe, 21 anni, discobola, dunque lancio il disco, nata a Torino da genitori nigeriani, vive a Moncalieri. Oppure Raffaella Lucudu, 24 anni, nata ad Aversa, Esosa Fausto De Salu, 23 anni, nato a Casalmaggiore, Gloria Hooper, 27 anni, di Villafranca. Insomma, i ragazzi dell'atletica, nati italiani, ma non basta. E dicono loro in questo articolo di Giulia Zonca, parlamentari, fatevi un giro di pista. Hanno aspettato una maglia a 18 anni, ora rappresentano l'Italia in Coppa Europa, ma sono ovviamente di origini, come si capisce dai cognomi, ma anche dai lineamenti, sono molto spesso neri, di origine africana la maggior parte. E è interessante comunque il punto di vista degli atleti azzurri che viene lanciato dalla stampa. In tutto questo ci sono invece due notizie che hanno un po' inquietato, una sul Libero, una sul Giornale, e riguarda la lotta al terrorismo internazionale. Luca Fazzo racconta sul Giornale la storia del marocchino di Sesto San Giovanni che voleva far saltare un centro commerciale ad Arese. Si faceva chiamare Luca Rossi. In realtà il suo nome è Nadir Benchorfi, marocchino, è stato arrestato e aveva il progetto criminale, di cui la Digos aveva trovato tracce esplicite nei suoi computer, di far saltare in aria il centro commerciale di Arese in cui lavorava. Aveva anche dei contatti con l'ISIS in Siria, progettava un attentato, come racconta Cristina Villa, poliziotta che per molti mesi ne aveva seguito i movimenti, lo racconta in aula al processo, dove ora Benchorfi viene appunto giudicato. Il rapporto sulla sua visita lo mette nero su bianco e lo invia un indirizzo in Siria. Questo fa il marocchino, nel cuore dello Stato Islamico, da cui riceveva istruzioni e ordini, a cui inviava ogni mese finanziamenti che raccoglieva negli ambienti milanesi dell'estremismo, una media di 6.000 euro al mese utilizzati per fornire di armi al califfato. Questa storia raccontata dal Giornale è abbastanza inquietante, come invece Franco Bechis su Libero racconta che Youssef Zagba, quello, uno dei tre che ha colpito nell'ultimo attentato di Londra e che è passato per Bologna all'aeroporto di Bologna e non è stato fermato, c'è un'indagine in corso. C'è un'indagine, non ci sono persone indagate al momento, ma all'aeroporto di Bologna è controllato un dipendente, anche lui di origine marocchina, che potrebbe essere stato in qualche modo il complice per far passare Youssef Zagba dai controlli all'aeroporto. Una talpa dell'ISIS all'aeroporto di Bologna. Questo è il titolo abbastanza inquietante che c'è sul Libero. Lo faccio vedere anche sulla mia pagina Facebook. Siamo allora in questo momento in diretta su Radio24.it, sulla pagina Facebook di Radio 24 e sulla mia pagina Facebook. Eccolo qua. Siamo in diretta ovunque, come il Grande Fratello ormai. Allora, troverete tanti articoli riguardanti il Portogallo, questa strage incredibile, da un fulmine è partito, un fulmine tra i rami secchi ha scatenato un incendio di proporzioni molto vaste e ci sono oltre 60 vittime, ma anche 200 dispersi, una vicenda che a leggere sembra veramente apocalittica dai giornali, che da un fulmine possa scatenarsi un incendio di questo tipo. Ma è brutale cronaca e la trovate ovunque sui quotidiani. È cronaca anche la vicenda della Francia, è cronaca la vicenda dell'Inghilterra. In Francia Macron alle elezioni, di fatto ha un Parlamento con la maggioranza, dunque un Parlamento che controlla. Mentre in Gran Bretagna Theresa May è un po' in difficoltà. Queste elezioni chiamate, convocate per rafforzarsi e poi non vinte di fatto in maniera larga, portano la Theresa May, la Premier, a un viso disfratto vero e proprio. Così almeno racconta Luigi Ippolito sul Corriere della Sera. Secondo il Sunday Times, i conservatori le avrebbero dato 10 giorni per mettere assieme un programma di governo abbastanza coerente per far passare un voto di fiducia del 28-29 giugno. Se entro questi 10 giorni non ce la fa, verrà, come dire, invitata a dimettersi. Va bene, dai, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Siamo a una pagina di Libero con un libro che fa imparare dal linguaggio dei gesti dei napoletani come si può parlare. cioè vi giuro, lì una pagina con le foto, con le foto, state buono, con le foto, con i gesti delle mani, oppure c'è questa, è uscito pazzo, così, così, il gesto è questo, si vede molto in radio, oppure c'è questo, Natazzulella caffè, c'è un libro che attraverso le foto, i gesti delle mani, spiega il libro, dedica una pagina a questo. Ma chi se ne frega!